Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Bentrovati, nuovo appuntamento con il mondo della scuola, ultimo appuntamento a cavallo tra i mesi di gennaio e febbraio, mesi importanti per le scelte che i ragazzi devono fare in vista del nuovo anno scolastico, soprattutto chi si trova alla fine di un ciclo come la terza media ad esempio. Il saluto da Mirko Cavallini in studio, a Didaici in regia. Oggi siamo tantissimi perché ci sono molte esperienze da raccontare e io ho un co-conduttore, uno lo avrò adesso, un altro ce l'avrò dopo, un co-conduttore che però è stato ospite qualche mese fa, se non sbaglio. Riccardo, benvenuto, bentornato. Grazie, ciao. Riccardo frequenta la prima A R dell'Istituto Mazzotti di Treviso, l'istituto turistico, giusto? E oggi sei qui, fa un po' da fratello maggiore, perché tu alle superiori ci sei già arrivato, eri già venuto qui a raccontare la tua esperienza e adesso mi affianchi appunto per intervistare alcune delle nostre ospiti, che invito innanzitutto però a presentarsi, quindi il nome, di quale classe siete, di quale scuola. Ciao, sono Giorgia, sono della terza A dell'Istituto Canossiano Madonna del Grappa. Ciao, sono Lucia e sono nella stessa classe di Giorgia. Ciao, sono Maddalena e anche io sono in terza A. Perfetto, allora, tre ragazze, poi avremo anche un maschio. Riccardo, cominciamo con le domande. Avete già maturato la vostra scelta? Principalmente non ho ancora deciso cosa fare, però avevo un'idea, pensavo di andare al Canova linguistico. Scusa, mi inserisco, Giorgia, che ha risposto. Hai questa opzione, ne hai anche altre, sì, sul tavolo? Oppure il Mazzotti. Oppure il Mazzotti. Mm-hmm. Lucia? Io pensavo di fare il liceo linguistico al Canova. Sono quasi decisa. Quasi. Poi andremo anche sul quasi. Maddalena? Io pensavo artistico e sì, sono decisa. Sei decisa. E come mai avete scelto questa scuola? Ripartiamo da Maddalena. L'ho scelta perché mi piace molto disegnare e le altre materie artistiche e quando sono andata a vederla mi è piaciuto molto anche come si stava nelle classi, era molto calmo come luogo. Lucia? Io ho scelto il Canova perché mi piacciono le lingue e mi trovo anche, insomma, mi interessano e ho trovato il Canova una bella scuola anche come spirito degli alunni e degli insegnanti. E Giorgia invece anche che forse fa il Canova ma forse è indecisa? Appunto per questo, perché mi piacciono le lingue, però il Canova mi ha fatto una buona impressione, però anche il Mazzotti comunque. Anche lì si fanno lingue, giusto? Esatto. Vedi. Confermi, Riccardo, si fanno lingue? Sì. Ok. Altra domanda? E come siete arrivati alla decisione della scuola? Cioè, per chi ha deciso, ad esempio Lucia che ha già abbastanza deciso, cos'è che ti ha fatto scegliere sì è questa? E quando sono andata a vederla sono stata decisa. Sei stata decisa, l'hai vista e hai detto questa è la scuola che fa per me. Sì. Poi ne ho viste anche altre, però questa è quella che mi ha convinto di più. Ecco, vedi. Chi invece è un po'... Ah no, aspetta, Maddalena, che invece era già orientata. Tu hai propensioni artistiche? Sì, dai, sono abbastanza brava e andrei là soprattutto per migliorare. E quando sono andata alla lezione mi hanno fatto vedere tutte sia architettura che pittura che scultura e erano tutte e tre molto belle, era un bell'ambiente e mi ha fatto decidere. Mentre Giorgia, che è ancora un po' così, cos'è che ti fa rimanere indecisa? Sono tutte due scuole molto buone. Però non so cosa scegliere perché uno è un istituto tecnico e l'altro è un liceo, quindi sono un po' diverse come materie. Beh dai, c'è ancora un mesetto davanti per pensare, ecco. Domanda, siamo già alla 4? Domanda 4, Riccardo. Quali sensazioni avete di fronte alla scelta? Avete paura della nuova scuola, di ambientarvi, di non riuscire ad ambientarvi? Avete gioia? Avete speranze, insomma, che sentimenti... Qua vediamo chi vuole rispondere, alza la mano perché bisogna pensarci un po', insomma. Che sentimenti, Lucia? Io sono felice e non vedo l'ora di iniziare. Non vede l'ora di iniziare, però c'è la terza media da finire prima, ricordiamo. Sì. Maddalena? Io non ho paura dell'ambientarmi, però di sbagliare scuola, perché poi comunque sono 5 anni, sono tanti, e credo che soprattutto mi mancheranno i miei amici, compagni di questo. Sai che si può cambiare anche dopo, eh? Ecco. Non è che è una scelta irreversibile. Giorgia, che sentimenti? Non hai ancora deciso, però. Anche io non vedo l'ora di iniziare le superiori, però comunque c'è ancora la terza media. E mi spiacerà comunque lasciare la mia classe, perché mi sono sempre trovata bene, anche se mi piacerebbe conoscere le persone nuove. Uh-huh. Andiamo avanti. Quanto siete sicuri da 1 a 10 che la scelta sulla scuola fatta sia quella giusta? Meno uno. Da 1 a 10? Io 9. 9, Lucia è la più convinta. 8 e mezzo, dai, anche a Maddalena, mentre Giorgia ancora è un po' titubante. E quali attività ha organizzato la vostra scuola per aiutarvi nella scelta? Avete fatto degli open day? Come funziona? Cioè, durante la terza media, la vostra scuola cosa ha fatto per proporvi magari tutte le possibilità che ci sono? Oppure vi siete mosse autonomamente, siete andate sì. con i genitori, con qualcun altro, insomma, nelle altre scuole? Hanno fatto fare degli stage? No. Maddalena? Allora, il preside ci ha illustrato un po' tutte le possibilità e ci hanno dato la possibilità di andare a qualche lezione, però solo di alcune scuole, non tutte. Per le altre scuole siamo andati da soli a informarci, e gli open day anche autonomamente. Giorgia? Sinceramente, cioè, durante le lezioni abbiamo parlato anche abbastanza di tutti i tipi di scuole e della scelta, comunque sarà importante per la nostra vita. E non ci hanno molto esposto tutti i tipi di scuole, ci hanno un po' spiegato le impostazioni generali delle scuole, e per il resto ci siamo dovuti muovere autonomamente. Mm-hmm. Con chi siete andati, Lucia, nelle varie... Io con i miei genitori. Ultima domanda. Come vi immaginate nella veste di studente di prima superiore? Mancano 7 mesi, più o meno, 7-8 mesi. Come vi immaginate fra 7-8 mesi in questa nuova scuola, più grande, con tanta più gente, eccetera? Non vi immaginate? Sinceramente non ci avevo mai pensato. Non ci avete ancora pensato. Va bene, allora, Riccardo, intanto ti accomodi con loro. Poi casomai torniamo più avanti, facciamo una pausa e poi cambiamo il collega che mi affianca per le domande e anche gli ospiti a tra poco. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Saprei, capisco già il perché. C'è lei con te per una notte spicciola, solo una presenza piccola che non mi ferirà. Lo so. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Eccoci di nuovo insieme con questa puntata dedicata all'orientamento, ne facciamo varie nel corso dell'anno in questo spazio appunto dal mondo della scuola. Cambio della guardia, sono usciti ospiti, è uscito il co-conduttore, è arrivata una co-conduttrice che ritroviamo, anche lei, con piacere. Alice, bentornata. Grazie, ciao. Ricordaci che scuola fai? Il liceo classico. Il Canova, sì. Il Canova a Treviso. Come prima, allora, ricominciamo il giro. Non abbiamo tre ospiti, ne abbiamo due e a loro chiedo di autopresentarsi, nome, classe e scuola. Carolina, faccio la terza D alle medie di Carbonera. Sono Giacomo, la terza A alle medie delle Canossiane. Ecco, bene, allora abbiamo due realtà diverse, quindi con Alice adesso ricominciamo con le domande. Sì, avete già maturato la vostra scelta? Sì, mi sono iscritta al liceo Da Vinci, opzione scienze applicate. Già iscritta? Sì. Quindi già firmato, consegnato, pagato, eccetera. Io invece, liceo sicuro Duca degli Abruzzi, però non è sicuro l'indirizzo se è scientifico o tradizionale o scienze applicate. Perché questa scelta? Perché allora matematica e scienze me la cavo e poi sono delle materie che mi piacciono, però io sarei più portato per le scienze applicate perché non si fa latino e si fa informatica. Il latino, cosa dici? È divertente. Ma Alice è brava in latino, quindi non ha problemi. Perché questa scelta appunto sul Da Vinci, Carolina? Perché mi piace la matematica e mi piace anche le scienze. E anche la scuola, quando sono andata a vedere, mi ha fatto una bella impressione, gli insegnanti, la scuola in sé. Come siete arrivati a questa scelta? Cioè, quanto ci avete messo a decidere, che cosa vi ha fatto, che cosa o chi vi ha anche aiutato magari a scegliere? Carolina. I miei genitori mi avevano detto che ero portata. E poi anche quando sono andata a vedere mi è piaciuta, come detto prima. In quanto tempo hai deciso? Cioè una volta dopo che l'hai vista? 2 mesi. Ah, 2 mesi. È tanto poco 2 mesi, Alice. Tu quanto ci avevi messo? Io sono partita subito con l'idea o due scientifico secondi. O classico. Scientifico sono una schiappa in matematica, quindi mi rimane sul classico, obbligata. Mi rimaneva il classico. Giacomo, com'è stato il percorso di scelta, di decisione? Beh, allora, già dall'inizio della terza media ero un po' indirizzato verso lo scientifico, perché comunque mi è sempre piaciuta la matematica. E Duca degli Abruzzi e non Da Vinci, uno, perché già lo frequenta mia sorella, e quindi so un po' l'ambiente con me, professori, scuola. E secondo, anche perché sono andato a vederlo con un mio amico, che anche lui verrà lì, e mi è piaciuto molto. Che sensazioni avete di fronte a questa scelta? Cioè, avete paura, gioia, orgoglio? Speranza. Beh, allora, le sensazioni, felice e spero di capitare in una bella classe. E poi anche, un po' di paura anche per affrontare nuove materie, nuovi professori e ricominciare tutto dall'inizio. Anch'io ho un po' di paura per i professori, anche perché magari ho paura di non trovarmi bene con la classe, però non vedo l'ora di iniziare. Che cos'è che fa paura dei professori? Che possono essere più cattivi, vi mangiano? No, non lo so, chiedo. Forse alcuni professori magari vengono descritti dagli alunni che magari vanno peggio di altri, come cattivi o che danno tanti compiti solo perché vanno male a scuola. Invece magari chi ci va bene li descrive come normali e non extraterrestri. Allora non dipende dai professori, dipende dagli alunni. Da 1 a 10 quanto siete sicuri che la scelta fatta sia quella giusta? 9. 8, anche se non hai ancora scelto l'indirizzo, giusto? Esatto. Però vabbè, sei abbastanza convinto. E la vostra scuola che attività ha proposto per aiutarvi nella scelta? Allora, noi siamo partiti a ottobre che una prof ci ha illustrato a scuola i vari tipi di scuole che potevamo scegliere. Poi c'era una prof che ha detto che potevamo fare degli stage, e allora bastava che ci iscrivessimo, e c'era un giorno prefissato in cui facevamo, al posto di andare nella nostra scuola, facevamo un giorno nella scuola che avevamo scelto. Tu l'hai fatto? Sì. L'hai fatto? Lì dove poi hai scelto di andare? Sì. Invece alle Canossiane, come hanno già detto le mie compagne prima, abbiamo fatto due giornate, una col preside e una col direttore della scuola, in cui ci hanno un po' illustrato tutti i tipi di scuola, tipo scientifico, linguistico, CFP. E invece col preside, più che altro, abbiamo parlato delle ore di studio, delle materie nuove, e quindi che la scelta non era da fare in 5 minuti, ma pensarci un po'. Come vi immaginate la veste di studente di prima superiore? Non ho mai pensato, non mi immagino. Non ti immagini? Con uno zaino più pesante. Beh, aspetteremo a dirlo quando saremo in prima superiore, per non portare sfortuna. Ah, vedi, ecco, c'è anche un po' di scaramanzia. Che impressione ti hanno fatto, Alice? Tu che sei già più grande, di qualche mese. No, sono convinti della loro scelta, e questa è importante. Poi bisogna portarla avanti, anche se non sempre sarà facile. Allora, facciamo un'ultima pausa e poi magicamente invertiamo ancora i ruoli. Dal mondo della scuola. Behind your door, say what's mine is mine and not yours. I may have. Ultima parte di questa puntata ricchissima di voci di ospiti dal mondo della scuola, speriamo stimolante anche per tutti quelli che ascoltano, che magari sono in terza media e devono scegliere che cosa fare l'anno prossimo. Abbiamo Riccardo e Alice che in scuola superiore già ci sono e hanno fatto delle domande a dei ragazzi che invece sono in terza media e stanno scegliendo, hanno già scelto il nuovo percorso. Adesso invertiamo i ruoli perché non ci facciamo mancare nulla. Allora saranno i ragazzi, le ragazze di terza media, a fare delle domande a loro che sono già in prima superiore. Maddalena, ci sono tante differenze tra la terza e la prima superiore? Beh sì, molte. Poi dipende da se tu studi o se studi poco, e cambiano molto le materie, il modo di studiare e la quantità di compiti. Questo era Riccardo. Alice? Abbastanza, perché comunque è tutto un ambiente completamente diverso, le materie sono diverse e anche la quantità di studio, cioè va cambiato il modo di studiare. Sentiamo la domanda di Lucia. Come vi siete sentiti il primo giorno di scuola superiore? Terrorizzata, cioè ero... Non sapevo se la scelta che avevo fatto era quella giusta. Anche se eri convinta. Perché ero convinta, però in quel momento proprio avevo paura, più che altro, di aver sbagliato scelta. Io ero felice perché avrei conosciuto gente nuova e mi piaceva l'idea di ambientarmi in un nuovo posto. Ah, vedi, scopriamo cose nuove a distanza di poco. E avete sentito in sottofondo una voce che ha fatto un commento, ma che poi interverrà nel modo più completo alla fine per completare il discorso. C'è cambio della guardia, quindi altre due voci dalla terza media per fare altre due domande diverse che loro non conoscono a chi è in prima superiore. Giorgia, cosa vuoi chiedere? Quali sono i fattori che vi hanno un po' influenzato nella vostra scelta del superiore? Beh, allora, intanto la scuola che frequentavo, poi i genitori, gli amici e gli insegnanti che mi dicevano su cosa ero portato. Un sacco di cose. Le materie in cui ero brava, ma anche e soprattutto le materie che mi piacevano. E non tanto gli amici, perché io dalle scuole medie di Carbonera sono l'unica che è andata al liceo classico, quindi gli amici non c'entravano proprio niente. Le materie che mi piacevano e che mi sentivo sicura di poter affrontare per 5 anni. Carolina, la tua domanda? È stato difficile ambientarvi nella nuova scuola? No, per me no. No, non particolarmente, perché poi con la classe una settimana e un po' ci si conosceva già, e un mese si è già ben orientati, secondo me. Poi all'inizio della scuola, per ambientarti, ci sono 2 giorni di accoglienza che li fanno per far conoscere la classe e l'ambiente in cui ti trovi. Ecco. Allora, salutiamo anche, poi le salutiamo alla fine, Carolina e Giorgia, e l'ultima domanda ci arriva invece da Giacomo. I professori delle nostre scuole dicono che alle superiori bisogna studiare di più e anche fare più compiti, e quindi cambiare metodo di studio e tutto. Ma voi avete trovato una grande differenza oppure no? Beh, lo studio, come ho già detto prima, va un po' migliorato, migliorata la qualità. I compiti, bisogna organizzarsi. Io sono una di quelle che non si è mai organizzata, che i compiti, se sono per domani, li faccio oggi. Però, comunque alle superiori mi trovo anche facendo così. Però bisogna studiare di più. Beh, il metodo di studio dipende, devi importartelo tu, perché se vai bene puoi tenertelo, se no devi sceglierne uno migliore. E la quantità di compiti sì è maggiore. E vedi, insomma, le differenze ci sono. Allora, salutiamo anche Giacomo. Giacomo, che poi salutiamo alla fine, e ritroviamo la voce di sottofondo che è quella di Giampaolo Alimede, che è rimasto oggi da ascoltatore. Questa puntata un po' particolare, diversa rispetto a quelle che con te abbiamo già fatto. Insomma, un paio di minuti abbiamo per le conclusioni. Allora, intanto ringrazio i due co-conduttori, perché se sta puntata è così e vi è piaciuta, è merito loro. Se non vi è piaciuta, è colpa mia. Ma sono sicuro che vi sarà piaciuta, perché sono veramente bravi. No, una considerazione importante che non è emersa da questi interventi è che molte volte i genitori delegano la scelta ai ragazzi. Ecco, qui oggi abbiamo capito che queste persone che hanno partecipato sono convinte, salvo diciamo alcune indecisioni, ma sostanzialmente sono stati anche aiutati dai loro genitori, hanno la loro scelta personale, qualcuno anche l'amico lo influenza, ma in maniera molto molto relativa. Invece purtroppo in molte situazioni, nella scuola aperta l'abbiamo scoperto, i ragazzi vengono lasciati a se stessi con la scusa che devono decidere loro, però abbiamo scoperto che molti insuccessi sono dovuti proprio a questo, diciamo, modo di agire. Se noi lasciamo a un ragazzo la responsabilità della scelta senza aiutarlo, potrebbe finire male. Esempio, se la scuola dà un consiglio di orientamento, e da qui è venuto fuori l'importanza della scuola in questo momento, di un certo tipo, e io non lo tengo in considerazione, potrei andare a finire in una scuola che è superiore alle mie capacità e trovarmi a disagio, e quindi perderei un anno. Qual è la considerazione che fanno i genitori? Ma intanto prova. Ma la scuola non sono un paio di scarpe che io le provo, faccio una camminata, se non mi va bene le cambio. Provare nella scuola vuol dire starci un anno, e se perdo un anno è un anno, diciamo, buttato via per niente. Quindi io direi ai genitori: fate tesoro di quello che dicono gli insegnanti, fate tesoro di quello che avete sentito questa sera da questi ragazzi, e dopo aiutateli, non delegateli in questa grossa responsabilità. Grazie allora Giampaolo anche per la tua esperienza, ti ringraziamo e auguriamo in bocca al lupo a Riccardo e Alice per il prosieguo di tutta la scuola superiore. Grazie. E in bocca al lupo a Lucia, Giorgia, Giacomo, Maddalena e Carolina, intanto per l'esame di terza media che ci sarà, e poi per la scuola che andrete a fare. Ciao. Grazie di Daici Regia, voi per l'ascolto. Da Mirko Cavallin, l'appuntamento con il mondo della scuola fra 7 giorni. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.